accendo fa brutto, l'impianto è distrutto, di nuovo in business, non resto all'asciutto. C'è sempre un buono farabutto, uno dei due viene fottuto. Butta via tutto, e se il telefono fa un crack, con davanti un doppio uno, arriva la volante, non c'è più nessuno. E se il telefono fa un crack, con davanti un doppio uno, arriva la volante, non c'è più nessuno. Gente, questa è Milano, sì. Come la viviamo, cantiamo la madunina, ma in siciliano abbiamo fumo, extra roba, tripota, cheta, falopa, MDM, rum e coca, fin quando il tuo cuore scoppia, faccia il vetro. Se mi parli non rispondo e nascondo le mani dietro. Io non c'ho l'unia, ma mi sbirri come Pietro. Tra me e il tuo cannone c'è un metro, e se lo prendo faccio un buco così grande che grida e si sente l'eco. È la divisa che nobilita solo chi non ha titoli. Io il re dei vicoli, con i ferri dentro i veicoli. Io un'altra legge, quella del gregge e del barrio. È il blocco che mi sorregge, le regole sono un paio. Uno, tengo in mente che hanno l'acciaio. Due, non appaio, tre, non parlo col commissario. Quattro, se suona la sirena scompaio. Nella perizia la giustizia è stata uccisa. Fanculo, per me sei solo un balordo con la divisa. Quando accendo fa brutto, l'impianto è distrutto. Di nuovo in business, non resto all'asciutto. C'è sempre un buono farabutto, uno dei due viene fottuto. Butta via tutto, e se il telefono fa un crack, con davanti un doppio uno, arriva la volante, non c'è più nessuno. E se il telefono fa un crack, con davanti un doppio uno, arriva la volante, non c'è più nessuno. Devo capire perché esiste un giorno in meno alla morte. Oh, mi apri il paradiso, oh, sfondo queste porte. Lo stomaco è forte, l'80% di banconote sporche. Il suono picchia più forte sul sedile posteriore. Penso a modi per far soldi, miro cancerose. Mi godo il sonno degli scolti, e se sei italo, arabo, afro, senti quando rimo, entri nel beat, perché il beat io lo apro. Creo per raggiungere il creatore, lui mi caccia dal creato, svuotando un caricatore. Figlio di uno scrittore, nato nel giorno del signore. Dall'asfalto sopra un metro, vi metto in pausa e vi mando indietro. Se per voi io valgo zero, uniti siamo cifre grosse. Le mie falle fanno grosse, girano roulette russe. Cosimo gira pieno in tasca, bianco in faccia, il plenilunio. Arrivano l'ora e non c'è nessuno. Quando accendo fa brutto, l'impianto è distrutto. Di nuovo in business, non resto all'asciutto. C'è sempre un buono farabutto, uno dei due viene fottuto. Butta via tutto, e se il telefono fa un crack, con davanti un doppio uno, arriva la volante, non c'è più nessuno. E se il telefono fa un crack, con davanti un doppio uno, arriva la volante, non c'è più nessuno. Sì, la vita inizia allo stesso modo del vizio, quindi dovrò pagarli tutti al giorno del giudizio. La prova che sto al mondo e che esisto non è un indizio. Se il ferro ce l'ha la gente, noi niente, non è armistizio. E se spara per un salario da preda, vuole insegnarmi a parlare, ma non ha fatto nemmeno la scuola media. E mi odia, perché alla fine del mese lui conta i deca, mentre brucio il suo stipendio in una sera in discoteca. Mega, passa a me col materiale ufficiale. Non voglio l'ufficiale che sgama il mio materiale. Non mi posso scordare, le fra che pompano il CD e pompano KG. Danno il 5, bella club di Gue, qui traccia cecchi con la mente. Shiro è calmo, ha il mondo sul suo palmo, come recita il salmo. Allarmo quando arrivo con il deal. Oggi ho scuoto il blocco, il club è fottuto squat. Quando accendo fa brutto, l'impianto è distrutto. Di nuovo in business, non resto all'asciutto. C'è sempre un buono farabutto, uno dei due viene fottuto. Butta via tutto, e se il telefono fa un crack, con davanti un doppio uno, arriva la volante, non c'è più nessuno. E se il telefono fa un crack, con davanti un doppio uno, arriva la volante, non c'è più nessuno.